Buona giornata dalla redazione e da Anna Rita D'Ambrosio. L'avete sentito nei titoli, sembrava fatta ieri nell'incontro governo parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro, sembrava che l'intesa ci fosse. Stamattina invece sono arrivate le parole della numero uno della CGIL, Susanna Camusso. Sull'articolo 18 le proposte sentite finora dal governo non convincono e non vanno bene, c'è ancora strada da fare. Io continuo a pensare che la trattativa va fatta con le parti sociali, quindi vedremo cosa ci dirà il governo al tavolo martedì. Come abbiamo sempre detto, per noi l'articolo 18 è una tutela generale, ha una funzione di deterrenza rispetto all'arbitrio sui licenziamenti e quindi qualunque discussione deve partire da salvaguardare questo principio. CGIL porterà al tavolo la posizione che ha sempre tenuto finora. Poi siamo nella fase in cui abbiamo enumerato in tutti i modi quali sono secondo noi le cose necessarie per arrivare verso un accordo e ci aspettiamo martedì delle risposte. CGIL dunque che sembrava possibilista, stamattina invece questa frenata. Quanto è in attesa? Lo chiediamo e lo ringraziamo al collega del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti. Giorgio, buona giornata. Buona giornata a voi. Ma diciamo che ogni trattativa è fatta di improvvise accelerazioni, stop and go, quindi insomma ieri, la notizia di ieri era questa importante apertura che c'è stata da parte della CGIL proprio sull'articolo 18, cioè il fatto di aprire alla possibilità che sui licenziamenti economici fosse il giudice a decidere sull'indennizzo o il reintegro, mentre ricordiamo che con l'articolo 18 è previsto se il licenziamento è illegittimo, se il licenziamento economico è illegittimo, il reintegro obbligatorio. Beh, quindi si tratta sicuramente di una svolta importante da parte della CGIL, che però la CGIL è uno dei soggetti che siede intorno al tavolo. Il governo ha un'idea diversa e anche le imprese hanno un'idea diversa e vogliono un'intesa su una proposta ancora più avanzata. E anche CISL e UIL da questo punto di vista hanno una proposta che è ancora più avanzata rispetto a quella della CGIL. Giorgio, quindi secondo te si potrebbe andare ad un'intesa con CISL e UIL senza la CGIL dopo queste parole della Camusso o no? No, è prematuro fare ogni tipo di così possiamo esercitarci in. Diciamo che la trattativa poi si farà al tavolo, anche perché la partita è un accordo poi che si regge poi in tutti i equilibri sui vari temi. È evidente che sul discorso dell'articolo 18, nonostante le aperture fatte da CGIL, la posizione della CGIL non è la posizione del governo, né quella appunto che sta bene alle imprese, e CISL e UIL su questo punto hanno una posizione diversa, quindi sarà difficile trovare una sintesi comune che sia bene a tutti, però il negoziato serve anche a questo. Certo, poi si innesteranno anche dei problemi ovviamente politici in questa trattativa. Un'ultima domanda prima di salutarti, Giorgio, però questi motivi economici non sono stati specificati, quindi sono ancora un po' nebulosi, cioè licenziamenti per motivi economici apre la strada a qualunque cosa. Sì, però è importante, fino alla settimana scorsa la CGIL aveva detto l'articolo 18 non si tocca, c'era stata un'apertura solo da parte appunto di CISL e UIL su quel discorso lì, quindi comunque si tratta di un tabù storico, no? A 10 anni la grande manifestazione, la CGIL effettivamente ha segnato una svolta su questo tema. Il punto è che in una trattativa la CGIL è uno dei soggetti che siedono al tavolo e quindi bisogna poi trovare una convergenza con gli interessi che vengono appunto dalle imprese e anche da parte del governo, e quindi il lavoro non è affatto facile. Poi certo. Giornalisticamente, questa essendo una trattativa che si fa sotto i riflettori, ogni giorno sembra che l'accordo sembra fatto, poi invece ogni trattativa è fatta di accelerazioni, frenate da parte di ogni soggetto che siede intorno al tavolo. L'abbiamo visto con il ministro Fornero, l'abbiamo visto con vari soggetti. Certo, quindi dobbiamo solo aspettare. Noi ringraziamo Pogliotti del Sole 24 Ore per questo chiarimento. Intanto nel pomeriggio c'è un altro incontro molto importante, quello tra governo e vertici della Fiat, nel giorno in cui fra sciopero delle bisarche e cassa integrazione tutte le fabbriche italiane della Fiat sono chiuse. Il momento è certamente delicato per la Fiat, a parlare sono i dati di mercato. A febbraio Fiat Group Automobile ha immatricolato in Europa 66.249 nuove vetture, registrando un calo del 16,5% e la quota è scesa dal 7,8 al 7,2%. Il Lingotto attribuisce la flessione in Europa alle perdite di produzione e quindi di vendite, pari a 20.000 unità, provocate proprio dallo sciopero delle bisarche, e stima un impatto negativo di circa il 10% sulle quote di mercato del mese di marzo in Italia e all'estero. Fiat non chiuderà stabilimenti. Ho raccolto le rassicurazioni dei vertici, che hanno ribadito la volontà di continuare con il piano industriale presentato, rassicura intanto il ministro del welfare Fornero. E nel pomeriggio, tra il presidente del Consiglio Monti, il presidente della Fiat Elkann e l'amministratore delegato Sergio Marchionne, si dovrebbe parlare proprio di politica industriale e di connessi piani occupazionali. A Monti non chiederò nulla, ha detto in settimana Marchionne, confermerò quanto già abbiamo detto per Mirafiori e Pomigliano. Andiamo avanti con i nostri investimenti secondo i programmi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed ora il punto sui mercati con la nostra Valeria De Rosa. Valeria. Ben ritrovata Anna, a te e ai nostri ascoltatori. Prima di tutto partiamo dal differenziale BTP e Bund, 279 punti base, quindi continua la discesa dello spread tra i titoli italiani e i titoli tedeschi a 10 anni. Andiamo sui mercati, in questo momento doppia velocità per quel che riguarda le piazze europee. Anche se comunque perdura questa cautela da parte dei listini, Parigi guadagna uno 0,22%, Francoforte lo 0,42%, Londra guadagna mezzo punto. Negativa invece Piazza Affari, dove il FTSE MIB e il FTSE All Share cedono uno 0,15% circa. Sul listino principale il miglior titolo resta Impregilo, più 3,33%, è salita la famiglia Salini con la propria quota nel gruppo. Salvatore Ferragamo guadagna 2 punti percentuali, Tod's 1 punto percentuale. In fondo al listino invece il titolo peggiore A2A, che c'è del 3,37%, UbiBanca il 2,73%, la Popolare dell'Emilia Romagna il 2,5%, così come Monte dei Paschi di Siena e il Banco Popolare. Lo abbiamo ripetuto per tutto il corso della mattinata, i listini europei sono in attesa di alcuni dati macro in arrivo dagli Stati Uniti, tra pochissimo il dato relativo ai prezzi al consumo alle 13.30 e poi la produzione industriale e la fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, tutti indicatori molto importanti per stabilire il grado di salute dell'economia americana e non solo americana. Ed è tutto. Grazie Valeria. La Moldova, la repubblica più povera d'Europa, è riuscita ad eleggere il suo nuovo presidente dopo quasi 3 anni. Oggi infatti il Parlamento ha approvato la nomina di Nicolae Timofti, 63 anni, dal 2010 a capo del Consiglio Superiore della Magistratura. La denuncia di ben 29 esperti esterni del Ministero degli Affari Esteri adesso. Avrebbero ricevuto oltre 1,6 milioni di indennità di missione attraverso false certificazioni. C'è stata poco fa anche la conferenza stampa, quindi ulteriori dettagli su questa vicenda. E noi siamo in diretta con Monica Ceravolo. Monica, che cosa è emerso? Buona giornata. Sì. Buongiorno anche a voi. È emerso che questi consulenti hanno percepito indennità che vanno da 10 a 300 mila euro ciascuno per missioni all'estero, ovvero Africa, Asia, America Latina, dove andavano per conto della Farnesina. Si tratta di professionisti, architetti, medici, ingegneri che hanno fatto, diciamo, la cresta dichiarando di essere residenti in Italia per percepire rimborsi maggiorati, mentre in realtà risiedevano nei paesi di destinazione. In 29, come avete anticipato, sono stati individuati e denunciati. Nell'arco degli ultimi 5 anni hanno percepito indennità non dovute, per oltre 1.600.000 euro. 23 di loro devono rispondere di truffa ai danni dello Stato, altri 6 di falso in atto pubblico per avere presentato false certificazioni. Le indagini, che hanno riguardato il periodo che va dal 2006 al 2010, sono scattate a seguito di una denuncia partita dalla Farnesina, che non ci vedeva chiaro e coinvolto la Guardia di Finanza. Sono quindi state prese in esame migliaia di autocertificazioni e un centinaio sono risultate false. Il Ministero degli Esteri a questo punto ha avviato le pratiche per la sospensione o la revoca delle somme corrisposte ai consulenti coinvolti, che sono stati denunciati sia all'autorità giudiziaria ma anche alla Corte dei Conti, investiti partita per recuperare le somme non dovute intascate dai professionisti. Ed è tutto. Grazie Monica. I due romeni sono stati fermati a Gorizia dai carabinieri di Perugia per l'indagine su una rapina in villa compiuta all'inizio di febbraio alla periferia del capoluogo umbro, in cui venne violentata una donna. I due sono accusati anche dell'omicidio di Luca Rosi, il 38enne ucciso nel corso di un'altra rapina in villa a Ramazzano. Il colonnello Angelo Cuneo, capo del comando provinciale dei carabinieri di Perugia, al microfono di Adriana Fracchia. Sono stati bloccati a Gorizia mentre rientravano dalla Romania con uno di questi furgoni che fa su e giù dalla Romania, dalla Moldavia, dall'Ungheria. Erano monitorati da qualche settimana. Subito dopo la rapina abbiamo cercato di circoscrivere il raggio dei sospettati. Sono collegati con la rapina con violenza sessuale ai danni di Papa, del ristoratore, dove hanno violentato la signora ecuadorenne di 54 anni, e ci sono dei forti elementi che hanno permesso l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura Repubblica di Perugia per l'omicidio Rosi. Per la prima volta è stato utilizzato il reparto crimini violenti dell'Arma dei Carabinieri. E questi due romeni fermati stavano rientrando dalla Romania? Stavano rientrando perché si sentivano tranquilli dopo ormai 15 giorni quasi dall'omicidio, e mentre noi li monitoravamo, e il nostro silenzio stampa, la nostra riservatezza ha cercato di fare in modo che loro si sentissero tranquilli e rientrassero in Italia il prima possibile, perché i tempi per l'internazionalizzazione del provvedimento di custodia cautelare in carcere sono dei tempi che non sono certo veloci come quelli che ci sono in Italia. Sono persone giovani? Purtroppo molto giovani. Uno è del 90 e uno di fine degli anni 80. Aggiornamenti dalle agenzie, leggiamoli insieme. Il primo riguarda il caso Lusi. Rutelli è dal PM per presentare un esposto contro l'ex tesoriere della Margherita. Ha detto ai cronisti: sono qui e sono arrabbiatissimo. L'altra novità riguarda invece la strage di Ustica. Nessun risarcimento, almeno fino al 2015. La prima sezione civile della Corte d'Appello di Palermo ha sospeso l'esecutività della sentenza che lo scorso settembre aveva imposto invece per quella strage un risarcimento di oltre 100 milioni a carico dei ministeri della difesa e dei trasporti per gli 89 familiari delle vittime. Marco Müller è il nuovo direttore artistico del Festival del Cinema di Roma. Lo ha deciso oggi il consiglio di amministrazione della Fondazione Cinema per Roma. Il compenso di Müller è lo stesso dell'uscente Piera De Tassis, 150.000 euro l'anno. Le 13:16 nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato della riforma del mercato del lavoro. La CGIL frena sull'intesa sull'articolo 18, dice la Camusso. Le proposte del governo non vanno bene. Denunciati 29 consulenti del Ministero degli Esteri avrebbero intascato oltre 1,6 milioni di indennità per missioni inventate. Tra pochissimo torneremo sull'incidente in Svizzera. Lutto nazionale oggi in Belgio. Nessuno dei bambini, dicono gli inquirenti, ha visto l'autista distrarsi con un DVD. Parleremo anche di calcio, perché ci sono stati sorteggi sfortunati per i quarti di finale di Champions. Il Milan ha pescato il Barcellona. Bene invece per il Real Madrid, che si scontra con l'Apoel. Ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Noi ripartiamo subito dal fisco, perché questa mattina è stata diffusa una circolare dell'Agenzia delle Entrate sugli studi di settore. In tempi di crisi anche gli studi di settore si adeguano, e dunque gli strumenti che il fisco utilizza per rilevare i parametri fondamentali di liberi professionisti, lavoratori autonomi e piccole imprese potranno essere integrati già nel 2011 tenendo conto degli andamenti economici. È una delle novità della circolare dell'Agenzia delle Entrate, che va a incidere dunque sulle dichiarazioni che dovranno essere presentate quest'anno dai contribuenti sottoposti agli studi. L'adeguamento comunque non sarà generalizzato, si tratta di accorgimenti che possono riguardare determinati settori o aree territoriali, con l'obiettivo di rendere gli studi sempre più capaci di stimare i ricavi e i compensi degli operatori. La circolare detta anche alcune regole per il confronto con i contribuenti che non risultino in linea, con un invito alla collaborazione, ovvero incentivando comportamenti virtuosi. Per tutti loro è prevista la possibilità di ravvedimento dell'omessa presentazione del modello degli studi di settore attraverso una dichiarazione integrativa, e in questo modo potranno beneficiare delle sanzioni ridotte sanando la violazione commessa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ed ora il nostro appuntamento con Paese Sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Nel paese sommerso accade che ci sia chi, invece di nascondere capitali in Svizzera, sceglie addirittura di nascondere interi chalet da sogno pagati a caro prezzo, forse pensando di spostare addirittura lì la residenza per pagare meno tasse e comunque dichiarare redditi irrisori in Italia, incompatibili con una villa all'estero da milionari. Addirittura due coppie italiane sono state colte sul fatto durante i controlli ai valichi di confine della Guardia di Finanza su tutto il territorio della provincia del Verbano Cusio-Ossola. Non avevano mai denunciato al fisco il possesso degli immobili di pregio di valore superiore a 500.000 euro. In uno dei due casi erano scaduti i termini, l'altro proprietario invece era ancora in tempo. Entrambi dovranno giustificare la disponibilità di così tanto denaro investito nel mattone svizzero, avendo dichiarato negli ultimi anni redditi irrisori. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo avete sentito nei titoli, è il giorno del lutto nazionale in Belgio per la morte dei 22 bambini e 6 adulti nell'incidente stradale in Svizzera. Sono tornate questa mattina in patria le salme delle 28 vittime del terribile incidente di autobus in Svizzera. Due aerei militari delle forze armate belghe sono arrivati questa mattina all'aeroporto militare di Bruxelles. Il governo ha deciso che la giornata di oggi sarà di lutto nazionale. Alle 11 è stato rispettato un minuto di silenzio. Al suono delle sirene migliaia di persone si sono fermati per strada in memoria delle giovani vittime. Le campane di molte chiese hanno suonato a morto. La vicenda ha scioccato un intero paese e per un momento il Belgio ha dimenticato le sue tradizionali divisioni tra francofoni e fiamminghi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. L'arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, è pronto alle dimissioni dopo la lunga battaglia di questi ultimi anni con l'ala liberale della Chiesa anglicana sulla questione dell'omosessualità. Lo hanno riferito fonti politiche al Times. Secondo la BBC, Williams si rimetterà alla fine del 2012. L'arcivescovo guida la Chiesa anglicana dal 2003. E sta facendo discutere in Italia la sentenza della Cassazione di ieri che, accogliendo il ricorso di una coppia gay, ha sancito che la coppia omosessuale è titolare del diritto alla vita familiare, come qualsiasi altra coppia coniugata formata da marito e da moglie. A fare ricorso Antonio Garullo e Mario Ottocento di Latina, che si erano sposati in Olanda. Antonio Garullo al microfono di Katia Caramelli. Per noi è stata inizialmente una forte emozione, poi dopo è subentrata anche una grande soddisfazione, però, perché tra l'altro per noi sono proprio adesso 10 anni di matrimonio e quindi questa sentenza, insomma, è stata anche un risarcimento morale veramente molto forte. Ve l'aspettavate questo risultato? No, sinceramente no. Che cosa cambierà adesso nella vostra vita? Ci siamo sposati 10 anni fa, quando eravamo già una coppia consolidata, perché insomma erano già 6-7 anni che stavamo insieme, eccetera. Il senso della coppia, della famiglia, del matrimonio ce l'abbiamo e l'abbiamo vissuto quotidianamente, anche grazie però all'humus, delle persone che ci sono attorno, perché le nostre famiglie, gli amici, i conoscenti ci hanno sempre dato un rimando di questo riconoscimento nei fatti. Mancava invece questo riconoscimento, come dire, formale, giuridico, che è importante, no? Se l'Europa è Europa, credo sia assurdo che le merci hanno libera circolazione e i diritti invece poi si fermano a frontiere che esistono ancora. Tecnicamente, se io avrò qualche problema, qualche diritto che devo rivendicare, la sentenza della Cassazione parla chiaro, mi dice di andare dal giudice ordinario e fare valere in quella sede i diritti che mi sono riconosciuti. Restiamo in argomento sempre al microfono di Katia Caramelli, l'avvocato Gianettore Gassani, presidente dell'Associazione Matrimonialisti. Io credo che questa sentenza sia più un messaggio in codice che la Suprema Corte di Cassazione vuole lanciare al legislatore e probabilmente alla Corte Costituzionale, perché poi di fatto non ha trascritto il matrimonio gay di questi due uomini, non ha potuto riconoscere il matrimonio in sé perché non è previsto dal nostro ordinamento, anche se poi l'articolo 29 della Costituzione parla di famiglia fondata sul matrimonio, ma non c'è un divieto del matrimonio degli omosessuali, quindi credo che da questo punto di vista bisogna mettere mano alla Costituzione. Dal punto di vista pratico, leggendo la sentenza, la Cassazione concede a questa coppia il diritto di rivolgersi al giudice di merito, quindi il tribunale, per vedersi riconosciuti i diritti più o meno simili a quelli delle coppie sposate, avendo loro comunque creato un sodalizio familiare strutturato. Possiamo prevedere un assegno di mantenimento, la vedo dura sulla pensione di reversibilità. Trattamenti sanitari? Penso proprio di sì, ma se non passa anche la possibilità che le coppie di fatto omosessuali possono adottare, la casa viene assegnata al genitore presso cui sono collocati stabilmente i figli, e per cui in questo caso rispetto alla casa coniugale penso che il giudice non potrà assolutamente pronunciarsi, resterà il legittimo proprietario. E siamo al calcio, ai sorteggi per i quarti di Champions, sorteggi che dicevamo, diciamo, per il Milan sono andati decisamente male, vero Carlo Genta? Sì, bene se si immagina una grande partita, comunque in realtà peggio di così, peggio del Barcellona. Non c'è un avversario al mondo, al Milan è toccato proprio il Barça, che tra l'altro ha già affrontato nella fase a gironi pareggiando al Camp Nou e poi perdendo in casa. Comunque sarà Milan-Barcellona, andata il 28 di marzo a San Siro e ritorno martedì 3 aprile proprio a Barcellona. La vincente di questo confronto incrocerà poi le armi con chi passa tra Benfica e Chelsea. È andata invece davvero benissimo a Mourinho e a suo Real Madrid, perché ha pescato il giallone, cioè la grande sorpresa di questa edizione della Champions League, cioè l'Apoel Nicosia, squadra cipriota. C'è poi un Marsiglia-Bayern Monaco che ha pronostico chiaramente, che indica i campioni di Germania, che tra l'altro ospiteranno la finale in casa. Questo è il tabellone da qui alla finale e non so, se volete scommettere un derby Real Barcellona in finale, magari potrebbe non essere un'idea così bizzarra, Anna Rita. E sarebbe bello da vedere sicuramente. Sì. Grazie Carlo, ne ci spostiamo a Venezia. Quel ponte è stato costruito male ed è costato un sacco di soldi. Ora lo certifica anche la Corte dei Conti, che chiede spiegazioni all'architetto Calatrava. Siamo ancora in Spagna. Non c'è pace per il ponte di Calatrava, ma questa volta i problemi sono per il suo inventore, l'architetto Santiago Calatrava, sotto accusa per i soldi che il Comune di Venezia ha dovuto sborsare e indagato per danno erariale. Dalla Corte dei Conti gli è stato inviato un invito a dedurre l'equivalente dell'avviso di garanzia penale, dopo che 11 anni dopo l'approvazione del progetto futuristico del ponte ad arco ribassato si sono chiariti i conti. Doveva costare 3,8 milioni di euro, lievitati poi a 6,7 e a lavori ultimati si sono sborsati 11,2 milioni di euro, più del doppio del previsto, e dicono ora i magistrati contabili, se tutti i problemi, spinte e spostamento delle rive, derivano dall'arco ribassato disegnato per motivi artistici, allora tutte le spese che da qui l'errore derivano sono un danno alle casse pubbliche di cui renderà conto chi di dovere. Per questo il procuratore Carmine Scarano ha individuato come possibili responsabili, oltre a Santiago Calatrava, anche i 6 tecnici che si sono succeduti negli anni dal progetto alla realizzazione. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Maria Piera Ceci. Grazie regia a Pietro Lacorte. Vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.